Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. È venerdì! La settimana più corta del mondo. Ieri. Io c'ho ancora oggi pomeriggio, domani mattina. Però è venerdì mattina. È venerdì. 8 gennaio. Una sfilza di santi dai nomi interessanti. Ma perché come... ne mettono di più insieme? Perché non ci stanno di proclamarne, devi inserirli da qualche parte. Senta, va bene che è bisestile l'anno, ma 366 sono col bisestile. Invece i santi sono migliaia e migliaia. Quindi oggi auguri a San Severino. Quindi a Severino c'è un Lorenzo Giustiniano, il primo patriarca di Venezia. Poi c'è Anastasio, mm-hmm. Abbo. Sant'Abbo. E poi questa Santa Gudula, che a me il nome piace tanto, è una convertita alemanna che si chiama Gudula. E Gudula. Santa Gudula o Gudula è... sembra meglio un titolo equivoco esatto. degli anni passati, ma vi garantisco meglio che non è quello. Santa Gudula, badessa, e quindi vabbè, magari la chiamo Gudula, la mia tra figlia l'altro... prossima. No. Attenzione, hai dato l'annuncio così. No, forse sì, forse no, però insomma, no, Gudula non la chiamerò, non credo. No, forse sì, forse no il nome, ma hai dato l'annuncio così della figlia. Sì, forse no. Dai, ci sono tante notizie straordinarie oggi. Bene, è vero. Le cronache un po' riprendono dopo la grandi eventi internazionali, d'accordo, Parigi. Hanno colpito altre cose. Per esempio, noi italiani parleremo di raccomandazioni tra poco. Raccomandazioni. E vogliamo chiedere a voi che cosa ne pensate delle raccomandazioni 800240024. E perché ve lo chiediamo? E perché c'è un parlamentare che ha riscoperto un dossier di 12 anni in Parlamento in cui ha catalogato le 20.000 richieste di raccomandazioni che gli sono giunte. E pensa che ne avrà fatto una cernita, quindi chissà quale quello che ha scartato, a che numero arriviamo. Naturalmente, diciamolo subito, lui ci tiene a dire che lo suo è un studio antropologico, sì. Ma nessuno pensi che era per avere dei voti in cambio. No. Ma soprattutto non ha mai ceduto mai a una richiesta di queste. Assolutamente, però dice che ha ricevuto delle ma lui poi le ha respinte le buste dei soldi. Ma sicuramente. E noi assolutamente siamo granitici nel dare subito conto di questa versione. Ma dopo ce lo racconterà. L'onorevole Carmine Nardone è ex presidente della provincia di Benevento, tra l'altro, ci racconterà appunto che lui ha ricevuto queste richieste, ma che poi erano promozione per l'esame. Sì, beh, la classica, tengo famiglia, come diceva Grande Fan. Tengo famiglia. E però, detto questo, singolare corrispondenza, oggi il mitico Cantone, oltre a occuparsi praticamente dei vigili urbani, di chi ha la diarrea, di qualunque cosa, ormai ci pensa Cantone, ma Cantone interviene, evoca 6 fascicoli del comune di Quarto in Campania, dove c'è la vicenda 5 Stelle con Camorra. Guarda che questa è una notizia che potrebbe davvero terremotare il comune, perché al di là delle polemiche dove ha votato la Camorra, cioè c'è un appalto dato a un'azienda che era interdetta dall'anticorruzione. Star Wars, qui arriva. Ma guarda che in realtà secondo me la stampa lì fa l'articolo migliore, dicendo che lo stesso Movimento 5 Stelle a questo punto si è reso conto che è meglio farlo cadere questo sindaco. Però Grillo lo ha difeso in una maniera un po' sbagliata, dicendo i voti presi dal candidato che abbiamo appena pulsato non erano stati decisivi. Non mi pare una grande difesa, diciamolo. Sì, diciamo che secondo me riconosciuto, qualcosa succederà. Però noi italiani, caro Oscar, lo sai che ci distinguiamo ovunque. Oggi, ho già capito di cosa parli. Oggi Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano racconta questa straordinaria missione diplomatica di Renzi d'Arabia, dice il titolo d'apertura del Fatto. In Arabia Saudita con la delegazione al seguito di Renzi, che quando i sauditi hanno tirato fuori dei Rolex per regalare d'oro, naturalmente d'oro, Rolex d'oro, perché i sauditi hanno fatto una rissa in la piena rissa regola dei Rolex d'oro scomparsi per accaparrarsi il Rolex. Beh, naturalmente poi non sarà vero, chi lo sa, noi aspettiamo la notifica, però dobbiamo riconoscere che il pezzo in cui si descrive è un pezzo di grande maestro, no, sì, perché sì, sembra la sceneggiatura di un eterno film di Totò, che rappresenta l'Italia eterna di Totò, cioè quella che poi ride di Zalone, che insomma poi raccoglie il testimone di Zalone. Però noi non ci facciamo mancare, ci facciamo sempre riconoscere. Sì, praticamente la delegazione al seguito del governo con Ariad, a un certo punto hanno distribuito dei Rolex, i sauditi, loro sono, e però qualcuno ha toccato il cronografo. Inciso, un po', la legge Monti impone di rifiutarli. Inciso. Esatto, esatto. E allora, siccome a qualcuno ha toccato un cronografo, a qualcuno un Rolex, qualcuno e chi sono io per accettare? E pare che nel palazzo saudita del re sia scoppiata una rissa tra la delegazione. Pensa al seguito i sauditi. Vabbè. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone: uomini e caporali. Ecco. Noi diciamo, tentiamo di fare sempre la figura dei secondi, per così dire. Dei secondi. Un abbraccio a tutti. E tutto caporale, questo non è arrivato ancora l'Air Force One del Presidente del Consiglio. Vogliamo preoccuparci un pochino, sperare che questi problemi si risolvano, perché non hanno ancora trovato i piloti. L'abbiamo preso all'Etihad, faceva parte del patto all'Italia questa roba dell'Etihad, l'abbiamo preso. Cioè, abbiamo, sì, hanno dismesso... è noleggiato, è mica nuovo, è da 10 anni questo. E semplicemente ci costa più o meno $500,000 al mese. Però il problema è che non c'erano i piloti abilitati. E nel frattempo quindi, e noi dobbiamo andare con l'aeroplanino. Facciamo queste figure, facciamo la figura dell'aeroplano e poi sui Rolex facciamo le risse. Io avrei voluto una telecamera con tra l'altro l'ambasciatore, pare Varricchio, che era lì a dire: disturbate i sauditi che stanno dormendo per la rissa per prendersi il Rolex. I sauditi che stanno facendo con il loro harem delle cose più interessanti. Solo, e pare che i sauditi abbiano detto: ma qual è il problema, diamo un Rolex a tutti, cioè, italiani, ma per così poco prendete. È un pezzo d'oro. In compenso Casaleggio sul Corriere della Sera denuncia: mi hanno per due volte allentato i bulloni dell'auto, ma io me ne sono accorto. Io domando, ma tu quando sei sulla tua auto vai controlla a verificare i bulloni? No, mi aspetto. Casaleggio è un po' lunatico, ma che pensa questa... che il nostro Vincino ha detto che secondo lui è stato Grillo ad allentargli, perché dice lì si risolvono così le questioni private, non lo so. E la RAI, la RAI, motivo per cui abbiamo anticipato il conto alla rovescia di Capodanno, rivela il dirigente, che naturalmente finirà a rogo. Ma che a rogo, non gli faranno assolutamente nulla, lo promuoveranno alla fine, perché rivela la vera ragione. Era per fare audience, Alessandro, cioè noi partiamo per rubare minuti il prima Mediaset, per attirare il pubblico nel classico di servizio pubblico, questa roba, per attirare il pubblico inizierà una radiocronaca sul giornale radio di un attentato mai avvenuto, il telegiornale inizierà a dire: seguite subito i pacchi di Insinna perché facciamo un collegamento col Quirinale che non ci sarà mai. Questo è il servizio pubblico. Ma cioè, dai, tu dici follia. Effettivamente c'è questo dirigente che è stato accusato proprio da campo dall'orto di avere anticipato volutamente per togliere pubblico a Mediaset. Così classico spirito di servizio pubblico. Noi facciamo infatti il dove non ci sono il capodanno che non c'è un minuto prima. Sì, effettivamente non è molto. No, devo dire pubblico, che rispetto all'incidente che poi ha dominato la cronaca, cioè quello della bestemmia passata, dei litigi, perché si è capito che naturalmente Rai 1 aveva mentito perché dando la colpa al Raicom, invece c'era il filtro di Rai 1. Ma detto questo è più grave invece, la decisione a tavolino di anticipare contro la rovescia, perché così acchiappiamo il pubblico. Certo. Tanto guarda che, caro Oscar, ci scrive un messaggio Mauro da Roma dicendo: guarda che Carmine Nardone, il politico che tra poco avremo, è un eccellente economista agrario della scuola ma di Portici, so, ma e non un politicantello. Ma no, ma infatti io apprezzo il fatto che dandoci solo 20.000 casi nel corso della sua carriera politica è sicuramente uno dei politici migliori d'Italia, perché gli altri hanno centinaia di migliaia di casi. Esatto. Questo, l'idea che un po' diamo è un po' questa, un po' questa. Insomma. Però, cari ascoltatori, c'è un altro caso che ci ha molto incuriosito, è quello di Corsico. Magari lunedì il sindaco lo chiameremo, perché chiama Filippo Errante. Fabrizio Errante, il sindaco di Corsico, ha fatto l'elenco di tutte quelle famiglie, ogni anno viene fuori questa storia, morose, cioè perché non pagano la mensa. 500 famiglie. La mensa scolastica dei bambini. E ha detto: da lunedì, dall'11, non darò più il pasto ai bimbi. Ha mandato la lettera ai direttori dei dirigenti scolastici segnalando ognuno scuola per scuola. Devo allora, dire che 1.200.000 euro mancano nel bilancio del comune di Corso, non poca roba. È il solito dibattito, c'era già stato in passato. Perché colpire i bambini? C'è chi dice perché colpire i bambini. Cioè, il bambino che va a scuola e non mangia, dai, non è una bella scena, no? Lui non c'entra nulla, lui il bambino, no? È il genitore, semmai. No, bisognerebbe. È il genitore che non paga, no? E il bambino, dai, si trova il bambino di 8 anni col panino invece della pasta. Ho capito. Io, come è noto, prevedo che abbia ragione il sindaco, perché altrimenti passiamo l'idea che è inutile pagarla la messa. Perché bisognerebbe pagarla sono d'accordo con te. Cioè, se questo è un modo per incentivare i morosi, no. No, quelli lì vanno presi e gli si dice: oh amico, perché c'hai il cellulare? Perché molti dicono: non me la posso permettere, ma c'hai lo smartphone, c'hai l'ultimo cellulare, c'hai la macchina e non ti puoi permettere di pagare un euro al giorno la mensa a tuo figlio? Ma dai, su, non siamo ridicoli. E quindi da questo punto di vista il sindaco ha perfettamente ragione a chiedere i soldi. Mi chiedo se lo strumento sia quello poi il migliore. Ma quale altro può esserci per indurli a pagare? Non lo so, infatti è una soluzione che non è facile. La sospensione del servizio? Non sarà facile, però secondo me il principio è chiaro. Qui non il è servizio che si può però essere... è dar da mangiare a un bambino, non è un servizio qualunque. In Italia siamo rigorosi con gli antipatici e poi con quelli che ci fanno simpatia non siamo rigorosi. Mm. E noi non siamo rigorosi perché siamo discrezionali, come vedi. E la povera creatura non morirà di fame, tanto. È il mio commento cinico, però è così, perché non è che gli stiamo sottraendo. No, però tante volte si dice: non morirà mai nessuno di fame in Occidente, i bambini. È vero, lo dico sempre anch'io a mio figlio quando non vuole mangiare. È vero. Per un secondo ero terrorizzato dal dove stavi andando a parlare. Ma invece mi pare che siamo più o meno d'accordo. Anche se tu ti poni un interrogativo, io invece sono dell'idea che serve a far capire ai genitori che... Mi pongo un interrogativo, nel senso che è chiaro che un sindaco che non raccoglie i soldi sospende un servizio. In questo caso il servizio è molto particolare. Primo perché coinvolge una persona, il bambino, che col fatto di non pagare. Ti faccio un esempio di rigore al contrario che oggi mi ha colpito dolorosamente. Il caso di Federico Aldovrani ucciso in un controllo di polizia nel 2005. Allora, dei due equipaggi delle volanti, lo Stato paga alla famiglia 1,8 milioni. Allora, a questo punto il problema è lo Stato si rivale sui poliziotti condannati per omicidio colposo. Sì. La richiesta all'inizio è che dell'1,8 milioni che paga lo Stato, i 4 poliziotti debbano integralmente farsi carico. Ok, la richiesta. La Corte dei Conti in primo grado dice no, dell'1,8 milioni solo 600.000 pagheranno i poliziotti. In secondo grado solo 170.000 su 1.800.000. Allora, a me un paese che, come vedi, il rigore non lo applica ai propri poliziotti condannati per omicidio colposo. Lo deve. Capito? Sai cosa arrivano di proposte via WhatsApp? Ne sono arrivate già 2 o 3. Mettiamo la mensa scolastica nella bolletta elettrica. Canone della RAI. Ma Renzi ha dato il cattivo esempio, tutti seguono. Eccola. La bolletta elettrica ormai diventerà €1 milioni. Un altro ascoltatore. Oppure questo, mettiamo un bel Velox a Corsico. Ti ricordi i comuni che fanno cassa? Caro sindaco, un bel autovelox in più e neanche e recuperi, e lì finisce per pagare chi non deve. Infatti gli autovelox servono a questo e invece no. E invece no, altrimenti finiamo a fare la truffa come sui numeri dell'occupazione del governo. Come sui numeri dell'occupazione. Ah, non ti piacciono questi numeri. Cioè, no, dici che è una truffa. Dicono che bisogna leggerli per quello che sono. Se a un anno di distanza ci sono 205.000 occupati aggiuntivi in più, però ci sono anche 138.000 inattivi in più che fanno scendere la disoccupazione. Gli inattivi, cioè quelli che non cercano più lavoro. E se di questi 206.000 in più, quelli a tempo indeterminato sono più 1,3%, quelli a tempo terminato più 4,5%, e tra 15 e 24 anni è scesa l'occupazione, benissimo, meglio questo po' di niente, però potevamo spenderli però meglio 6 miliardi della decontribuzione. È la decontribuzione che poi ha favorito tutto questo. Caro Oscar, ci chiama Claudia da Roma. Claudia, buongiorno, che ci vuol dire? Sì, buongiorno. Complimenti a tutti, mi piacete molto. Io oggi ho chiamato perché... Siamo sposati, È un unione civile. Anche no, lei, sì, però si è sposati, io e Oscar. Ma io intendo questo. Intendevamo io e Oscar, non con... prego, Claudia. Vabbè, è importante essere felici, poi. Dica. Allora, io... Che devo fare? Devo aspettare le domande? Dica. Allora, io oggi ho chiamato perché mi punge molto l'argomento delle raccomandazioni. Premetto che lavoro in questo momento da più di 15 anni per una società di proprietà di Poste Italiane con contratto a tempo indeterminato. A un certo punto l'anno scorso Poste ha deciso di levarci il lavoro. Sì. Ha detto che era a tempo indeterminato. Ma lei è appunto indeterminato o determinato? Indeterminato. Da più di 15 anni. Mi sono fatta la mia bella gavetta con tanto di contratto interinale, successivamente di formazione. Ma che c'entra, scusi, al di là di questo dramma personale, cosa c'entra la raccomandazione in questo senso? Glielo dico subito. Poste Italiane oggi si riprende il nostro lavoro, però nello stesso tempo promuove 8.000 posti di lavoro per fratelli, cugini, amici, parenti vari. Sì, ma questa cosa mi punge molto, non solo. Però lei ha le prove di questo, cioè, perché dirlo così? Sì, perché purtroppo quando noi, siccome noi stiamo cercando di essere riassorbiti in Poste, quando noi andiamo a informarci sulle persone che vengono assunte, perché mentre noi tra poco perderemo il lavoro, nel frattempo ci sono realmente delle nuove assunzioni, sono sempre persone che hanno conoscenze lì, parenti lì, cugini, fratelli, amici, eccetera, eccetera. E noi invece che niente. Sono... Cara Claudia, non mi resta purtroppo che oltre a condolermi con lei, che non è un caso, credo che tutti i record li stia battendo, che cosa non è, che con l'idea di prendere in giro la maniera del posto fisso per gli italiani pubblico, in realtà poi fa vedere come molti continuano a giostrare e a chiedere in cambio cose per le assunzioni, e i saliti te ne ridono perché sanno che le cose non sono cambiate, come ci dice lei. Siamo un po' così, dice. Comunque Claudia, la ringraziamo, stia con noi, perché tra poco appunto parleremo con Carmine Nardone e con Gerardo Colombo delle raccomandazioni. Dove lotta eroicamente contro una cosa, beh, secondo, almeno questo possiamo dire. Carmine Nardone ci racconterà la sua esperienza. Pochi secondi, perché devo dire una cosa su Roma, perché il comitato promotore della candidatura di Roma per Olimpiade 2024 ci ha pregato di informarvi che la prima bozza di programma economica del budget verrà presentata a febbraio, perché così chiede il Comitato Olimpico Internazionale, e loro lo faranno, e quindi è confermato quello che ho detto ieri, cioè a noi non anticipano neanche un numero i signori del comitato promotore dopo le belle prove di Italia 90 e così via. Io resto della mia opinione, cari amici del comitato promotore, abbiamo informato di quello che volevo. Comunque atteniamo febbraio, perché febbraio è alle porte. Però nel frattempo la mobilitazione è già partita, gli annunci ufficiali pure, Renzi pure e così via, ma loro un numero non ce lo hanno dato. Che lo diate al Comitato Olimpico Internazionale prima che ai romani e agli italiani, la dice lunga su chi siete, cari amici del comitato promotore. Spero che vi piaccia questa mia rettifica. State con noi, tra poco. Eccoci caro Oscar, sono le 8.35 minuti in punto. Allora, siamo un popolo di raccomandati? Questa è la domanda che raccomandanti, raccomandatori, perché poi ci sono tutte le categorie collegate al tengo famiglia. Esatto, perché c'è una persona che è Carmine Nardone, ex parlamentare, per 10 anni è stata anche presidente della provincia di Benevento, che nel raccogliere tutto il faldone in Parlamento si è accorto che aveva catalogato, non so, quante richieste di aiutini, diciamo così. Onorevole Nardone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamatevi onorevole, mi sono dimesso. Vabbè. Nardone, professor Nardone. Carmine, come volete voi. Carmine, va bene. Quante ne ha raccolte di richieste di aiutini? Ma 20.000, davvero così tante? No, ma Antonello ha fatto un ottimo articolo, Antonello Caporale, però non è così. Cioè, nel senso che abbiamo classificato questi 20.000 persone che si sono relazionate da singolo o in gruppo, con una forte differenziazione di queste relazioni. Diciamo che il 30% erano quelli proprio degli aiutini gratuiti, inutili e spesso illegali. Ce ne faccia capire uno, per esempio? Allora, il più diffuso. Questi sono i professionisti della raccomandazione, questi venivano da noi e noi li classificavamo grazie a un funzionario integerrimo che mi aiutava in questa relazione complicata, e noi ci mettevamo una sigla MPC, significava manco per il cavolo, bellissimo. questa non è male, e c'eravamo noi a interrogarci, cioè, in napoletano MPC. Manco pa capa, esatto. Capa, ecco, poi nelle ore notturne potete dire la verità esattamente. No, ma per esempio i manco, cosa le chiedevano i manco pa capa? Manco pa capa, che chiedevano i manco pa capa? Ma di tutto, per esempio c'erano dei bugiardi che si capivano a volo, no? Dicevano, una frase tipica era: non ho mai chiesto niente, e si dimenticava che magari era la sesta volta che veniva a chiedere una cosa diversa. Non male, non poi male. C'erano quelli trasversali, dice, sono venuto da voi per non andare dall'altro, in realtà questi giravano le segreterie abitualmente. Poi c'era il completo rifiuto dello Stato di diritto, venivano a chiedere per un certificato, potete chiamare in un momento, potete fare quest'altro, questi qua venivano rigorosamente convinti ad andarsene. Certo. E diciamo che poi negli anni si sono ridotti perché... Sì, dopo un po', dopo un po'. Come il santo che non fa miracoli, e quindi non venivano più. Ma invece... offrivano anche soldi, Nardone? No, i soldi è stato un caso che ho citato perché è il caso dei cioccolatini. Cioè? Ma no, c'era, mia madre era una persona anziana e spesso si rifiutavano di venire alla segreteria presso il partito, chiedevano a mia madre, io vorrei incontrare vostro figlio. E un giorno si è presentata una signora col marito e una figlia. E l'ho incontrato perché erano vecchi amici di mia madre. Ci dovete fare un piacere, dovete raccomandare questa figlia un esame all'università. Disse, ma io non lo faccio, non... E poi perché la volete rovinare a sta ragazza? Dopo, in futuro, quando penserà sempre di essere stata una aiutata a raggiungere l'obiettivo della laurea, la rovinate, lasciate stare. Questi erano così oppressivi, dopo un poco mi distrago un attimo con questa ragazza e mi dico che questa era poverina, era proprio oppressa dai genitori. Mi dice, senti, vai a fare l'esame che tu sei bravo e lo superi. E che lo dici che non l'avrei raccomandato. La ragazza va a fare l'esame, lo supera, sì, ma per merito suo. Io, dopo pochi giorni, io avevo detto a mia madre di non accettare mai regali da nessuno, perché l'altro problema è quello: portano i regali in anticipo, così tu pensano tutti i Si, certo, si contrae un'obbligazione. E sono arrivati i cioccolatini, e che c'era in questi cioccolatini? Sì. No. Torna a casa e dice, mamma, ma ti avevo detto di non prenderli. Dice, ma sono dei cioccolatini, ha detto lei, che vuoi che siano. Ad aprire la busta e dentro c'erano 500.000 lire. 500.000. Allora dico, ma adesso dove li vado a trovare? Allora non è che erano facili i telefonini come adesso. Li riesco a rintracciare e disse, adesso portate via sta roba immediatamente. Avete rovinato una cosa bella di vostra figlia. Non vado dai carabinieri se mi ripigliate indietro. Insomma, però, Nardone, intanto... E allora però, quando li incontro per strada, poche volte lo incontrate, cambiano strada. Cambiano strada. Però, Nardone, lei sta raccontando queste cose, ci sta anche ascoltando, la sta ascoltando, Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani Pulite. Colombo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Insomma, al di là dei racconti, che se vuole anche di colore, no? I manco pa capa, sì, certo. Bisogna capire, io vorrei capire ad esempio dove si può identificare il reato. Beh, dove c'è una dazione di denaro per passare per esempio l'esame all'università, è chiaro che lì c'è un'ipotesi di reato, ma se uno viene a dire mi trovo un lavoro per il figlio al politico, dov'è il reato? Cioè dove si configura il reato? No, il reato si può configurare soltanto se esiste uno scambio di denaro o di qualsiasi altra utilità. No? La corruzione non richiede per essere integrata che l'atto compiuto dal pubblico ufficiale sia un atto contrario ai doveri d'ufficio, può anche essere un atto perfettamente legittimo. Ma il principio è che il funzionario pubblico non può essere pagato per il lavoro che fa. Questo è il punto. Pagato in qualsiasi modo, cioè non soltanto con denaro, ma anche attraverso qualsiasi tipo di ricompensa. Ma anche con voti, cioè io voto lei se lei mi trova il posto al figlio. Lì poi c'è la complicazione di riuscire a trovare quel reato, esatto, perché c'è anche il voto di scambio, no? Esatto. Certo. Però al di là del reato, secondo me, oltre il reato, perché certo il reato è un problema gravissimo, ma oltre il reato, quello che mi ha sempre colpito, avendo a che fare nella vita con aspetti diversi da questa questione, quando giovane ho fatto politica in un partito nazionale, poi giornalista, adesso per le lettere che riceviamo come giornaliste, è l'estensione di questa tendenza, no, che rivela che negli italiani l'idea che l'articolo 97 della Costituzione, cioè l'autonomia, l'indipendenza, l'imparzialità della pubblica amministrazione, in realtà non esista, e che realisticamente bisogna quindi fare come fanno gli altri: allargare i comodi, chiedere il piacerino. Temo perché che sia l'Italia come dice è tutta Claudia così. Da Roma dice tutti che vede si lamentano cugini, che altrove gli altri lo fanno, e allora sono costretto a farlo anch'io. Il politico viene sommerso. Non credo affatto che tra prima e seconda repubblica ci sia stato il miglioramento, il cambiamento, neanche per idea, non lo credo affatto, come credo che i voti continuano a prendersi in molte parti d'Italia. Così, allora la mia domanda a Gerardo Colombo, qui la questione è antropologica, culturale, prima che penale. È culturale, antropologica non direi, ma sicuramente culturale. L'impressione che ho io è che si sia un popolo di sudditi piuttosto che un popolo di cittadini, dove si chiedono favori piuttosto che non rivendicare diritti. E allora sì, tutto passa, tutto, quasi tutto, molto spesso, ecco, molto spesso le cose passano attraverso la raccomandazione, che è giusto la supplica, no? Sì, cioè, era, cioè, esatto, avere, esattamente. Perché no, il riconoscimento che il potere pubblico è la discrezionalità piena, l'adesione a questo è il conformarsi, ti do in cambio qualcosa, ma per carità, chi discute che tu devi essere discrezionale? Basta che me ne dai un pezzo anche a me, e no, mi sbaglio, Colombo? Abbastanza. Con questo ulteriore aspetto, no? Con questa ulteriore visione secondo la quale giusto noi non abbiamo diritti, ma tutto quello che ci arriva è una specie di relazione sovrana. No, tra l'altro dura vita per lei, Colombo, che passa gran parte del tempo andando, ricordiamo, nelle scuole a cercare di insegnare ai ragazzi che le regole sono qualcosa su cui si fonda lo Stato e che andrebbero rispettate. Per questo io poi mi permetto di non di deridere né di sorridere, ma di grattarmi la testa sul fatto che crediamo che poi a qualunque problema di questo tipo risponde Cantone e la sua squadra di eroi in tutta Italia, perché mi pare un vasto programma. Il problema culturale, cioè sentire che sono così diffuse le richieste, Colombo, che Carmine Nardone ci sta raccontando, la stupisce? Penso di no. Non particolarmente, mi ha fatto venire in mente un episodio di ormai tanti anni fa, 1992 o 93, insomma, sia proprio nel vivo di Mani Pulite, e io ero su un traghetto diretto, andavo in vacanza con la mia famiglia, e ci riconoscevano tutti, no? Di Pietro, Davigo, me, e anche sulla nave lì mi hanno riconosciuto, e tutti a dire bene, andate avanti qua, là, su, giù, eccetera, eccetera, eccetera, e finché c'è stato un marinaio che mi ha avvicinato dicendo: scusi, ma c'è mio figlio che vorrebbe entrare in polizia, lei non potrebbe aiutarlo? Proprio così, anche sfrontato di fronte a uno dei magistrati che cercava di bloccare la corruzione del tempo. E lei che gli ha risposto? Perché ti dà l'idea ti dà l'idea che anche Gerardo Colombo veniva identificato come un subentrante, quello che stava sconfiggendo i cattivi, quindi lei è buono, lei comanda. E lei che ha risposto, Colombo? Io gli ho detto: ma scusi, ma le fai? E così basta. Ho cercato di spiegargli un po', ma è stato difficile riuscire a comunicare. Certo, cioè non capiva il perché del suo stupore. Sì, non capiva. Esatto. Però io ho una domanda uguale per entrambi, sia per Colombo che per Nardone. Il politico, di fronte a questa realtà e a questo problema culturale, il politico, che cosa è chiamato a fare? Quale innovazione nel proprio comportamento rispetto ai propri compagni di partito? Non dico vediamo, Nardone, cosa deve fare un politico? Sì, però volevo darvi notizia però di un altro aspetto che non è stato notato. Ci sono i coraggiosi, quelli che si sono rivolti e sono stati alla base di grandi inchieste sulla truffa e contro la criminalità organizzata, dei veri eroi. E devo dire che sono stati fatti atti per quanto riguardava l'estorsione, l'usura, le truffe, soprattutto truffe AIMA, per esempio, sono nate da cittadini che non si sono rivolti in maniera congiunturale, ma poi hanno collaborato a un lavoro di inchiesta che ha durato anni. Viva, giusto. Meno male, insomma. Sì, no, ma voglio dire, l'inchiesta su come noi abbiamo importato carne da mucca pazza con una a fare l'indagine capillare per vedere come si era trasformato dall'importazione di animali vivi, che la mucca pazza si vedeva ammalata, a carni fresche lavorate. Noi in Italia ne abbiamo mangiate a tonnellate, oppure come in Italia avevamo 4.224 stalle che producevano latte senza capi. Viva, però Nardone, stia al punto, il politico rispetto a il malessere diffuso e non annullato dagli eroi civili che no, per fortuna ci sono, che deve fare? Collegialità, cioè l'unico antidoto che c'è è la collegialità. Con i consigli di fabbrica noi andavamo benissimo, insomma, perché ponevano problemi di interesse generale a volte giusti, drammatici. È la collegialità, superare nettamente quelli che sono i rapporti individuali. L'altra cosa è la comunicazione, devo dire. Vi faccio un esempio, avete parlato del dottor Cantone, dello sforzo che sta facendo. Sì. Bene, noi abbiamo fatto un'esperienza con uomini dello Stato, di modificare la stazione appaltante della provincia di Benevento anni fa, dall'invasione delle aziende di Casal di Principe. Fu fatto un protocollo di legalità talmente rigoroso, con l'aiuto dell'istituzione del Comitato della Sicurezza, cacciate 62 aziende dalle gare d'appalto, senza contenzioso, cioè non c'è stato contenzioso o possibilità di rivalsa. Cioè dice il politico può fare. Lei dice il politico può fare se vuole fare, se fa collegialità. Ma non c'è bisogno di legge. Ma che vuol dire fare collegialità? Non lo so che vuol dire collegialità. Qual è stato però che di fronte a questo, invece di studiare questo caso, di metterlo a disposizione della comunità, non abbiamo potuto confrontare con nessuno. Adesso sta facendo una rivendicazione politica. Lo devo far dire. Lo sai che cosa volevano? Non studiare questo caso, ma avere le schede riservate di ognuna di queste aziende. Che se le avessimo dato o qualcuno le avesse date, panificava tutto. Ma lei sta facendo le aziende di aprire contenziosi. Nardone, qui sta facendo anche una rivendicazione politica, come dire, il mio lavoro, il lavoro mio e della mia squadra, della mia squadra, la collegialità è servita. Questo ci ha detto. Io questi dati noi l'avevamo date per motivi di studio. Perché insieme a questi io ho archivi anche sulle grandi questioni nazionali. Che dovevo decidere a chi consegnare, mi sono occupato di Federconsorzi, che è una questione irrisolta di questo paese, e la documentazione ricevuta prima da Rossidoria e poi dall'attività diretta. Credo che meriti di essere. Però Nardone, lei oramai parla da studioso, però il problema è che ha fatto politica per tanti anni, l'ha fatta al Parlamento, l'ha fatta la Presidente delle Province. E la mia domanda, io sono la ringrazio del materiale accumulato, del criterio accumulato, dei criteri. Sì. Il problema è che mi aspetto da un ex politico anche una certa chiarezza, perché io capisco, conosco tante persone, quando eleggevamo deputati a Milano, figli di presidenti di Assolombarda, persone di specchiato, rettitudine, che e quando iniziano a fare politico eletto e alla segreteria arrivava la gente a chiedere favore, anche se improntati dichiaratamente per anni nella propria vita professionale ai migliori criteri di chi avrebbe commentato, ma che questa roba va cambiata, come insegna Gherardo Colombo, poi non riuscivano a farlo e si piegavano alla cosa, dice mamma mia, ma gli altri fanno così, i voti si prendono così, e io quelli della mia segreteria del partito mi dicono che devo fare così, e lo facevano, praticamente. Non so, vediamo, Colombo è così, cioè il politico che dovrebbe fare? Dovrebbe rinunciare, come dice Oscar, al bacino elettorale, perché quelle persone che vengono a chiedere poi si tramutano in voti. Certo che lo so. Dovrebbero farlo pubblicamente, dovrebbero dire nel proprio partito che se c'è chi lo fa, bisognerebbe fare vedere battaglie interne nei partiti in cui i colleghi del partito dicono tu, secondo me, fai questo e quello. Per voti. Questo Colombo, bisognerebbe che fare. Dice lei? Sì, ma io credo di sì che bisognerebbe fare così, ma bisognerebbe anche fare contemporaneamente un'altra cosa, perché delle volte queste richieste di raccomandazione dipendono dal fatto che attraverso i canali giusti, i canali regolari, non si è riuscito ad ottenere i diritti. Infatti quello che dice Colombo è anteporre a tutti i diritti, giusto. E allora bisognerebbe anche intervenire per fare in modo che tutte le volte in cui il riconoscimento del diritto non c'è, questo non accada più, cioè che la pubblica amministrazione funziona in un modo diverso. E appaia davvero quello che dice l'articolo 97. Perché se no è come ci diceva l'ascoltatrice prima, che dice: ma se io vedo che io vengo licenziata e assumono i cugini, il figlio, il padre, che faccio? Cerco un cugino anch'io, perché voglio dire, a un certo punto devo cavarmela. Se questa è la giungla, se questa è la giungla, mi butto nella giungla. Sentiamo Carla che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno Carla. Buongiorno e complimenti a voi due, prima di tutto siete mitici. Grazie. Allora, dunque, naturalmente i due in questione sono Nardone e Colombo. Nardone e Colombo. Prego, voi due. Allora, io parlo di un episodio che sono 40 anni che ce l'ho sullo stomaco. Ah. Io all'epoca avevo 20 anni, quindi ero molto ingenua. Comunque ho fatto un concorso all'ospedale della zona per due posti di impiegata. Dopo aver superato brillantemente sia gli scritti che gli orali, un membro della commissione si è permesso di chiedermi da chi fossi raccomandata. Così, siccome, proprio brutale, così. Platealmente, sì. Siccome io non avevo nessuna raccomandazione, purtroppo non sono stata assunta. Ma doveva dire Andreotti, anche se non era vero, l'avrebbero presa sul serio subito. Glielo ho detto che ero ingenuo all'epoca, oggi non mi sarebbe successo. Ecco, mi hanno dato l'idoneità. Che cosa ne ho fatto di quell'idoneità? Niente, perché i successivi concorsi che sono stati indetti... cioè non hanno più preso persone. Però vede, mi ha colpito, ha sentito Colombo, cioè Carla, che dice: ero ingenuo all'epoca, oggi non sarebbe successo, cioè oggi risponderei, no? Oggi capirei che è la giungla e quindi mi adatterei alla giungla, no? Sì. E d'altra parte è anche comprensibile, non dico giustificabile perché non lo è, ma comprensibile, sì, perché se addirittura il membro della commissione esaminatrice dice... Chiede, lei da chi è raccomandata? Beh, uno potrebbe per esempio andare dai carabinieri, anche se poi diventa difficile riuscire a dimostrare, perché esatto. non sono le cose semplici. Gerardo Colombo e a Nardone, che è stato politico impiegato in Campania, ricordo il caso, me ne sono personalmente occupato con una trasmissione con l'assessore di Napoli, del parrucchiere centro di Napoli tra Sanità e Via dei Tribunali, che ha denunciato il pizzo. Ed è solo e con gli affari meno 50%, alla fine non se l'è sentita di venire in trasmissione da noi a raccontare, perché dice: io già voglio fare il 50%, non so più cosa fare, dovrò chiudere. Ecco, a proposito di eroi civili e di come funziona poi, insomma. Come no. Comunque noi ci dobbiamo fermare qui, ringraziamo Gerardo Colombo e ringraziamo lo studioso Nardone, Carmine Nardone, che racconta anche l'articolo del Fatto che una mania dei poliziotti era chiedere di entrare nei servizi segreti, tutti nei servizi segreti. E andavano da Di Pietro a chiederlo. No, perché Colombo ci ha raccontato solo per questo che loro chiedevano anche a loro, mica non andare a pensare male. Dai. No, ma io non penso male, ma magari pensa male Di Pietro. No, glielo stiamo spiegando che non pensasse male, perché la gente chiedeva. Ah, tra l'altro, precisazione, perché il sindaco di Corsico mi ha mandato la sua segreteria, si chiama Filippo. Filippo? E perché hanno scritto? Non so, si chiama Filippo. Hanno scritto Fabrizio Errante. Si chiama Filippo. E allora ha sbagliato il Corriere della Sera. Va bene. Va bene. Detto questo, grazie a tutti quanti. Continuate su Radio 24, naturalmente sentendo anche Mix 24 subito dopo di noi. E appuntamento per te la settimana appuntamento, è finita. No, tu oggi alle 4:30, poi domani conti della Belva alle 10. E io dico, è venerdì. Oh ragazzi, che avete preso il Rolex in Arabia Saudita alla scorta di Renzi, non fateci fare cattive figure, no, esatto. Restituiteveli tra voi, anche perché chiamate i sauditi, ve ne danno altri due o tre. Esatto. Non è un problema per loro, ve ne danno due o tre alla moglie, ai cugini, ai parenti, non c'è problema. Dai, ringraziamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia e ci ritroviamo lunedì, caro Oscar. A lunedì. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone: uomini e caporali.